cosa hanno nella libreria il partito di maggioranza relativa di questo paese, è diventato più interessante, diciamo, per il pubblico. E quindi ho detto, vabbè, dai, facciamo questo libro. E anche per una questione che ha a che fare con i protagonisti di questa vicenda, che sono effettivamente ossessionati dal tema della cultura, no? Considerata l'ultima casamatta da espugnare della sinistra. Allora, questo libro c'ha una è breve, ma prova ad avere una temporalità lunga, perché prova a raccontare il rapporto della destra italiana. Qui, quando parliamo della destra italiana, diciamo, parliamo sostanzialmente dei neofascisti e dei postfascisti, ok? Quindi parliamo di quello che ha una filiazione diretta con il fascismo del Novecento. E si trovano a fare, diciamo, nel dopoguerra succede una cosa strana, in qualche modo. Cioè, ci troviamo di fronte a una generazione politica, sostanzialmente, che si affaccia alla vita di un paese che diventa una democrazia, di fronte a quella che questi percepiscono ovviamente come una catastrofe, no? E questo 1945 è un lutto da cui è difficile riprendersi, no? E quindi c'è anche chi cerca strade nuove, no? L'MSI è un partito, in realtà è un partito con una dialettica democratica e interna molto grande, ad esempio, no? Noi abbiamo, magari pensiamo che abbiamo un'immagine monolitica. Il partito in realtà è un partito in cui si litiga tanto, ogni congresso finisce assediato, ci sono mozioni, si discute tanto dentro il Movimento Sociale Italiano. Si discute molto poco di cultura. Chi si occupa delle tematiche culturali è quella che viene percepita all'interno come la sinistra del partito, in realtà è la destra, ok? La estrema destra del partito. È percepita come sinistra perché è quella più attenta alle questioni sociali, in qualche modo. E questo avviene tramite sostanzialmente l'incontro con una figura che è stata molto marginale durante il fascismo, che è Julius Evola, e che invece diventa molto importante nel dopoguerra. C'è un gruppo di giovani dirigenti missini, giovanissimi, che qualcuno ha appena fatto in tempo a fare e la Repubblica Sociale, qualcuno neanche ha fatto in tempo, che vanno nella casa romana di Corso Vittorio Emanuele, di questo filosofo tradizionalista, esoterico, molto più vicino al nazismo che al fascismo, che compie un'operazione molto importante. Destituisce Gentile, cioè il fascismo, diciamo, ha questa caratteristica qua, non ha un corpus ideologico, diciamo, codificato. Questa è una delle caratteristiche dei fascismi del Novecento, è anche questa cosa qua. E quindi sostituisce sostanzialmente Gentile, che era un po' la versione di destra dell'idealismo, al posto su Gentile ci mette un'altra serie di autori, tra cui se stesso. E quindi la cultura di questi giovani missini, che cercano delle nuove coordinate per muoversi in un mondo che non riconoscono, da cui si sentono esclusi, in cui sono gli sconfitti, è sostanzialmente fornita da queste nuove coordinate. Di cosa sono fatte queste nuove coordinate? Di un anti-egualitarismo radicale, di una cultura tutto sommato iniziatica, quindi di un'idea della militanza politica e spirituale come un percorso per eletti, di delle cose strane che poi ci ritroviamo ancora oggi. Noi non si capiscono bene queste cose a volte, però sono molto radicate in quel mondo. Cioè, quando vediamo questi che fanno il solstizio d'inverno, il solstizio d'estate, i falò, tu dici, ma perché? Ma che stanno facendo? E invece questo tipo di, diciamo, questo sostrato di pratiche è radicato in questo tipo di storia qua. Ecco, questo per dire cosa? Questa roba in realtà arriva fino a noi, non è, Casa Pound fa delle magliette con scritto Kali Yuga Surfer. Il Kali Yuga è esattamente l'idea che evola, che esiste un tempo ciclico e non lineare, e quindi noi ci ritroveremmo alla fine di un'epoca di decadenza che bisogna accelerare, e che questa epoca si chiama Kali Yuga. E quindi, no, voglio dire, questi riferimenti poi tornano. Adriano Romualdi è una delle figure, allievo di Evola, figlio di Pino Romualdi, che è stato a lungo il presidente del Movimento Sociale Italiano, è stato un po' il garante della filiazione diretta al Movimento Sociale Italiano con la Repubblica Sociale. Per capirci, è sepolto a Pedrappio con Mussolini, per capire il tipo. Adriano Romualdi, giovane intellettuale, brillante per quell'area politica sicuramente, scrive, prova ad affrontare di petto questa questione del tema culturale. Siamo all'inizio degli anni 70. Però a dire, ragazzi, qua è vero, noi non abbiamo una politica culturale. Siamo ai margini, non sembra roba quasi per noi. E quindi prova ad affrontare il tema. Prova ad affrontare il tema e lo fa sempre ripartendo da Evola, quindi che forgia questa immagine che ha una lunga durata nella storia della destra italiana, è quella degli uomini in piedi in mezzo alle rovine. Le rovine sono letteralmente le rovine del Reichstag, sono letteralmente le rovine del bunker di Hitler, sono letteralmente le rovine di Berlino del 45. Quelle di cui parla Evola. Ecco, le coordinate culturali che prova a dare Romualdi sono delle coordinate che stanno dentro questo universo qua e che quindi sono intrise di antimodernismo, di una difficoltà ad approcciare alla contemporaneità, di una difficoltà reale a, diciamo, stare nel gioco democratico. Tanto che le cose di cui stiamo parlando ora, che sembrano un po' strane, un po' lontane, in realtà poi innervano anche l'idea che tutto sommato si possono mettere bombe. Sono anche la giustificazione ideologica al ruolo della destra eversiva in Italia nella strategia della tensione, dentro la strategia della tensione, dentro un mondo bipolare, si può accelerare la decadenza dell'Occidente per rispondere alla minaccia comunista. Voglio dire, stiamo parlando di esattamente questa roba qua. I giovani evoliani sono Rauti, sono Romualdi, sono esattamente questi qua, e stanno esattamente nell'album di famiglia della destra italiana. Ecco, e quindi rintracciare queste radici e provare a capire il rapporto della destra italiana con la questione culturale ci porta dentro queste questioni qua, per scoprire poi alla fine di tutta questa storia che la biblioteca di riferimento della scuola Quadri di Fratelli d'Italia non è cambiata così tanto dallo scenario che abbiamo raccontato adesso. Grazie. Un altro evoliano di riferimento, diciamo ancora più innovativo per quanto riguarda il campo culturale della destra, e sicuramente l'hai nominato, è Rauti, che è una persona che ha più di qualche cosa a che fare con la strategia della tensione, uno degli ideatori della strategia della tensione, il fondatore di Ordine Nuovo, ecco. Quel tipo di destra guardava Ordine Nuovo, comunque nasce alla destra dell'MSI, ma non ha un reale rapporto conflittuale con l'MSI, entra ed esce, diciamo, usa la politica dell'ombrello. E, diciamo, uno dei riferimenti culturali fondamentali per Ordine Nuovo è la Nouvelle Droite, e soprattutto la pratica della metapolitica, e il think tank che nasce intorno al think tank della Nouvelle Droite, gli intellettuali della Nouvelle Droite, che è il Grèce, come si dice, non mi ricordo. Alla francese non lo sappiamo dire. Se ce ne puoi parlare, appunto, di Grece. Se ci puoi parlare di questo tipo di influenza, appunto, della Nouvelle Droite francese sulla, appunto, destra italiana. se vogliamo tagliarla con l'accetta in termini temporali, c'è un lungo dopoguerra in cui e c'è un lungo dopoguerra che finisce col 68 in qualche modo per la destra italiana e soprattutto per i settori giovanili della destra italiana. Il lungo 68 italiano creerà due cose. Prima di tutto, noi siamo abituati a pensare all'università come il luogo del sapere critico, come il luogo del conflitto, un pezzo di conflittualità sociale, no? Se noi pensiamo, viene un autore del pensiero radicale da qualche parte, noi pensiamo lavorerà all'università. Questa cosa è una cosa abbastanza recente, cioè nel suo ultimo libro che parla delle rivoluzioni, Enzo Traverso fa delle tabelle con cui mette a confronto le vite di molti rivoluzionari del Novecento e scopriamo che nessuno di questi ha mai lavorato in un'università, no? Quindi diciamo ancora nella prima metà degli anni 60 un po' di agibilità in un'università che è tutto tranne che un'università di massa, l'estrema destra ce l'ha. Le mobilitazioni irridentiste, insomma un po' di agibilità ce l'ha. Il 68 cambia tutto e cambia anche il rapporto delle giovani generazioni con la necessità di affrontare invece la contemporaneità. C'è Marco Tarchi che è stato il più importante esponente in qualche modo del tentativo di importare in Italia la nuova destra francese, l'idea della nuova destra francese, che faceva una rivista diventata un po' media nell'ambiente, che forse avete sentito nominare, che si chiama La Voce della Fogna, che è stato quello che si è inventato un'altra roba che ha un sostrato mitico ma al cui poi impatto è relativo, che si chiamano i Campi Hobbit, no? Marco Tarchi definisce all'epoca, diciamo, la propria stessa cultura di provenienza, quindi questa cultura di marca, questo tradizionalismo di marca evoliano a cui abbiamo accennato, un mito incapacitante. Ok? Questa definizione, che funziona molto bene, ci sta tutto. Un mito incapacitante, cioè una proiezione mitica che rende impossibile rapportarsi con la propria contemporaneità. Allora si provano a fare una serie di operazioni. Due l'abbiamo citata, La Voce della Fogna, Campi Hobbit, Ewin è una rivista che si occupa di donne, un approccio nuovo all'ecologismo. Cioè, sulla seconda metà degli anni 70, un pezzo della destra italiana prova a cercare risposte nuove a problemi nuovi che si pongono nella società. È il momento in cui il conflitto capitale e lavoro perde di centralità, perché cambiano i paradigmi produttivi, emergono nuovi bisogni. La destra prova a cercare nuove risposte e lo prova a fare anche dentro il fatto che la società sta cambiando, no? La società sta cambiando, l'antifascismo non ha più un carattere di classe e dunque diventa più un fattore ideologico che sociale, quindi c'è più spazio per tentare di prendere in contropiede l'avversario. E in questo contesto qua l'incontro con la nuova destra francese è un incontro provvidenziale, in qualche modo. Viene mediato da alcune figure come Giorgio Locchi, come altri, diciamo, italiani in Francia, ma un incontro importante perché passa per questa misura qua, cioè per l'idea che è tramite soprattutto la cultura e il posizionamento anche su alcuni strumenti dei media non di aria che la destra deve ritrovare lo spazio, quindi non nella rivendicazione identitaria di un mito incapacitante, ma piuttosto nella sfida alla contemporaneità e soprattutto nella sfida all'avversario, no? È il momento in cui si cerca in maniera ossessiva il confronto con l'avversario, perché è una forma di legittimazione. Allora sono famosi alcuni confronti. Il primo a farlo è stato Massimo Cacciari, che va a un convegno della nuova destra. E è la stessa cosa che faceva, tutto sommato, è la stessa strategia che faceva Giorgia Meloni invitando Bertinotti ad Atreju. Cioè si cercano nuove formule di sintesi, anche ideologica, su alcune questioni, che si fanno superare il binomio fascismo-antifascismo, il binomio destra-sinistra. E questo è un patrimonio che la destra italiana importa e dalla nuova destra francese, che però avrà dei limiti, io penso, che non gli faranno mai superare bene questo mito incapacitante di cui abbiamo parlato, ma magari poi ci arriviamo. Sì, perché proprio la prossima domanda è proprio su due convegni che vennero fatti proprio in quel periodo all'interno del dibattito di Ordine Nuovo. Questi due convegni si intitolava uno Proviamo la Nuova e Al di là della destra e la sinistra, tu ne parli nel libro, e in questi contesti viene rinnovato l'armamentario ideologico della destra tradizionalista di stampo evoliano contro il marxismo egualitario, ecco. Sì, è quello un po' di cui abbiamo parlato ora, cioè non sono due convegni di Ordine Nuovo, sono due convegni, diciamo, di questa nuova destra italiana, e che tra l'altro finiranno male, perché l'MSI non è un partito che gioca, questi vengono espulsi, questi o rientrano o vengono espulsi, Tarchi sarà espulso. Non è una storia particolarmente felice quella dell'itinerario della nuova destra, eh. Fanno delle cose, queste cose hanno una dimensione mitica nella propria area di provenienza, però parliamo di robetta, non so come dire. E in questi convegni appunto si prova ad affrontare e a mettere le mani in questo coacervo di problemi. Ah, si parla della ricezione di Tolkien, si parla della letteratura, e qui ci si comincia a porre un problema. Ad esempio Romualdi, di cui abbiamo parlato, diceva il cinema non è una roba per noi, noi sul cinema non possiamo mettere le mani, la Vintart non è roba che noi possiamo affrontare. E qui ci si comincia a porre un po' il problema, no? E io penso che però qua sta veramente il grosso limite, ed emerge molto bene da questa attività convegnistica. Emerge il grosso limite della destra italiana in questa fase, che cerca, io penso anche genuinamente, un rinnovamento, un incontro con pezzi diversi di società, e il grosso limite sta nella capacità di produrre una poetica autonoma. Non so come dirlo. E nell'incapacità di produrre cantautori, nell'incapacità di produrre degli artisti, una poetica di riferimento, e quindi il gioco è sempre un gioco di sempre un gioco ad accaparrarsi un po' quello che rimane libero, ok? E questo libro si chiama Le radici profonde non gelano. È un verso di una poesia che scrive, che viene scritta per Aragorn da Bilbo Baggins. Quindi Le radici profonde non gelano, in realtà sono quelle del re che deve tornare nel Signore degli Anelli. Se voi ce lo cercate su internet, cercate Le radici profonde non gelano, immagini su Google, lo trovate attribuito a Benito Mussolini direttamente questo verso, perché è questo, diciamo, la ricezione di Tolkien, di cui si è parlato molto, ci sono dei libri molto belli, Nella terra di mezzo di Pupin 4 è uno di questi libri. La ricezione di Tolkien in Italia passa per una casa editrice che si chiama Rusconi, che è una casa editrice che pubblica testi di questioni religiose, un po' mistiche, è una casa editrice sicuramente non di sinistra, ma neanche una casa editrice neofascista, per capirci. E quindi viene trovato un po' libero. In più c'è un problema della cultura delle matrici PC in Italia, che non guarda di buon occhio la letteratura disimpegnata, il fantasy, no? Ma invece negli Stati Uniti, no, Tolkien è patrimonio più del movimento hippie che sicuramente dell'estrema destra. Qui viene un po' associato alle saghe nordiche, eccetera. Ma è proprio un caso di maquillage culturale, eh? È proprio un'interpretazione postmoderna dei prodotti culturali. E questi convegni si vede molto bene, cioè si vede molto bene la difficoltà di chi prova ad approcciare il tema della cultura. Poi alla fine, quando devono dire qualcosa che è nostro, dicono strapaese. Insomma, in Italia una versione idilliaca dell'Italia rurale, dei campanili, della famiglia, che non esisteva nel ventennio, figuriamoci alla fine degli anni 70. Grazie. Un'altra anomalia che analizzi nel libro è il Gramsci di destra. Addirittura nella cronaca attuale San Giuliano, prima di ministro, ex ministro della cultura, prima di passare alle cronache per le sue vicende amorose, diciamo così, aveva proposto una targa per Gramsci. Ma com'è possibile questa sussunzione di Gramsci a destra e in che modo è stato tentato questa operazione culturale? Questa è grazie ai francesi, in realtà. Allora, partiamo dal presupposto: Gramsci è uno degli autori italiani più discussi nel mondo, cioè in particolare dagli anni 80 e 90 c'è un grosso momento Gramsci, e diciamo senza Gramsci non ci sarebbero gli studi Subaltern Studies, probabilmente. È stato letto in India, è stato letto in Sud America, è stato letto in Africa in maniera molto proficua, perché è un autore il cui lavoro per molti versi è seminale, per molti versi è un laboratorio aperto, quello gramsciano, e quindi è servito moltissimo, ad esempio, nei processi postcoloniali Gramsci. È stato un autore molto importante, tanto che probabilmente non avremmo una generazione di storici indiani, africani, sudamericani senza Gramsci. Ma le categorie gramsciane, proprio per questo loro carattere in qualche modo aperto, sono sottoposte, diciamo, a diverse interpretazioni. Una di queste interpretazioni sono due, diciamo, quelle problematiche dal punto di vista da sinistra. La prima è italiana, cioè quello che il tentativo che viene fatto nell'immediato dopoguerra di infilare Gramsci, di togliere Gramsci, diciamo, all'universo marxista e di collocarlo in una filiazione idealista. E quindi sarebbe più Croce che Marx, ecco. E lì infatti c'è un libro incredibile nella sua visione, che è un libro di gruppi, che è poi il custode dell'ortodossia ideologica del PC, che a un certo punto fa un libro in cui dice sostanzialmente giù le mani da Gramsci, ecco. E questo qua lo fa già negli anni 60. E l'altra interpretazione è il cosiddetto Gramsci di destra, cioè il Grece, ovvero il think tank, la rivista di riferimento della Nouvelle Droite francese, fa un convegno dedicato a Gramsci. E perché fa un convegno dedicato a Gramsci? Perché da Gramsci prende una categoria che è quella di egemonia, categoria sopravvalutata nel dibattito pubblico rispetto all'opera gramsciana, e che però viene un po' pervertita, io penso, in questo dibattito, no? Se l'idea gramsciana è quella di costruire una cultura autonoma delle classi subalterne, e denuncia come ad esempio il Risorgimento non produce questo, non produce mai il grande romanzo popolare e didattico, e che sostiene in qualche modo che c'è la necessità di costruire un posizionamento dentro la questione culturale che costruisca delle alleanze in grado di produrre un'egemonia, appunto, sulla società. E in questo investe anche, diciamo, le avanguardie, i gruppi intellettuali, eccetera, in un collocamento tra classi. Invece nel ragionamento in qualche modo della Nouvelle Droite questa cosa viene ridotta a tecnica, in qualche modo. Il tema dell'egemonia qual è? Il tema dell'egemonia è sostanzialmente colonizzare gli spazi dei media mainstream o della politica mainstream, facendo cosa? Traghettando un repertorio ideologico che viene direttamente dal fascismo del Novecento, dentro un mondo radicalmente cambiato. Quindi, dicendolo in termini più sloganistici, togliere la camicia nera a certe idee e mettergli il doppio petto in qualche modo. E nel contesto italiano attuale viene ancora, secondo me, viene ancora questa questione, si complica ancora di più, perché tutto sommato memori di questa cosa che Gramsci l'hanno masticato un po' anche loro. Che cosa dicono le destre di governo di oggi? C'è anche un libro di Giuli che si chiama Gramsci è vivo, che in realtà secondo me certifica che Gramsci è morto per loro, che è proprio il contrario a tutta la Gramsciana. Cioè, cosa dicono loro? Allora, dobbiamo fare un grande pantheon culturale di questo paese. Dobbiamo costruire una grande narrazione popolare e nazionalista di questo paese. E in questa grande narrazione c'è posto anche per Gramsci, sostanzialmente. Cioè, alla sinistra viene regalato il santino di Gramsci, in qualche modo, di un Gramsci ridotto a, appunto, un po' una figurina, di un Gramsci molto addomesticato, e però questa è un po' l'idea. È stata un'idea importante, perché poi, appunto, è un'idea che ha circolato molto negli ultimi 15 anni, tra l'altro ha travalicato anche l'oceano, anche negli Stati Uniti l'estrema destra ha parlato molto di Gramsci. Grazie. Facciamo un salto temporale. Anni 90, arriva Berlusconi, in Italia c'è Tangentopoli, il piano politico della Prima Repubblica è una maceria e Berlusconi praticamente è quello che toglie il cordone sanitario ai fascisti, portandoli al governo, creando quella che poi governerà per anni, la destra pluralista, ecco. Tu sottolinei questo momento come un momento importantissimo nella storia, appunto, delle radici profonde della destra, un cambiamento totale, evidenzi un momento in particolare che sono le elezioni a Roma, e niente, se puoi parlarci appunto di questo cambiamento, ma anche della differenza che c'è tra la politica nazional popolare berlusconiana edonista e quella di questa destra post-fascista che si sposa alla fine anche molto bene con l'austerity. Ma sì, vabbè, Berlusconi ce lo ricordiamo penso più o meno tutti, occhio e croce. Berlusconi, quando arriva al potere in Italia, sdogana i post-fascisti, ma regala loro anche un quadro di legittimità con cui questi un po' faticano, avere a che fare. Marcello Veneziani scrive un libro dedicato alla cultura di destra per dire questa cosa qua a un certo punto, nel 96, nel 97, all'inizio dell'avventura berlusconiana. Cioè dice, attenzione, cari camerati, che questa faccenda è un po' complicata, perché è chiaro che l'egemonia culturale qua non è la nostra, no? E quindi, un po' la differenza salta all'occhio. L'immaginario berlusconiano, c'è un libro di Ida Domigliani che è dedicato alla sessualità, alla biopolitica, all'utilizzo dei corpi dentro la stagione del potere berlusconiano, dell'apice ma anche del tramonto, no? Potere berlusconiano in cui sicuramente non è un'immagine in cui i desideri vengono mortificati, tutt'altro, no? Berlusconi ha fondato parte del suo carisma personale sulla potenza sessuale, sostanzialmente, sulla promiscuità sessuale, questo uomo la cui, che rimanda l'arrivo dell'impotenza sessuale all'infinito, no? Questa è parte della mitologia, della macchina mitologica berlusconiana, è questa roba qua. Al contrario, la destra italiana è una destra castrante, è una destra che ha problemi col desiderio, che ha fatica anche a metterlo a valore. Cioè, è chiaro che la stagione berlusconiana, ma anche dei prodotti culturali di massa di quegli anni, da Boldi e De Sica, da Natale a Miami, alla televisione commerciale, ai primi reality, alle letterine, è questa roba qua, no? Cioè l'idea di mettere a valore i desideri, anche i desideri sia sessuale, sia il desiderio sessuale, sia i desideri di consumo dei cittadini, delle persone. Berlusconi ha incarnato un po' questo sogno, e non è un caso che è stato un po' l'interprete migliore, ma non in Italia, ma uno degli interpreti migliori in Occidente, in qualche modo, di una stagione in cui la storia sembrava finita, in qualche modo, no? In cui il progresso, la stabilità, la ricchezza, la soddisfazione del bisogno materiale sembrava una cosa che avesse un orizzonte infinito, in qualche modo. Questa destra non è così, no? La destra italiana fatica su questo terreno, sul terreno del anche soltanto della messa a valore del desiderio sessuale, non so come dire, o del bisogno, o dei sogni, neanche riesce ad addomesticare, semplicemente ci sono un po', è una dimensione che gli è un po' estranea, tanto che quando devono fare improprio non ci riescono. Ecco, io poi penso questo, che questi hanno vissuto, sono arrivati nell'alveo del potere nella stagione berlusconiana, che gli ha fornito un quadro di riferimento valoriale, anche ideologico, dentro la società, ma che a fare in proprio faticano ancora molto, e non so se era una delle domande, ma la bruciamo. E il fatto che faticano ancora molto si vede con Sanremo, no? Con Sanremo. Sanremo è la manifestazione nazionale popolare per eccellenza, una manifestazione che fino a pochi anni fa sembrava destinata un po' a scomparire, diventare secondo piano. A un certo punto Sanremo invece, a un certo punto il paese si ferma, una settimana il paese si ferma perché c'è Sanremo, per l'effetto combinato di due fenomeni. Il primo è la risonanza di questa manifestazione su internet, in cui prima la prendiamo tutti un po' in giro, poi però la commentiamo con passione davvero. E il secondo fenomeno ha a che fare col mercato, cioè a un certo punto il mercato capisce che là c'è uno spazio e lì si fa il mercato del disco in Italia, si fanno le hit, si fanno le canzoni che circoleranno in radio per i successivi 12 mesi, in sostanza. Si fanno le grosse scommesse sui giovani artisti, i Maneskin, no? È un successo globale. Sanremo sta sul cazzo a destra italiana. Questo Sanremo qua, questo Sanremo che funziona, che piace alla gente, che le persone guardano, sta sul cazzo a destra italiana. Perché? Perché alla fine, nonostante sia una narrazione assolutamente addomesticata, nonostante sia un'amministrazione nazionale popolare per eccellenza, sul palco dell'Ariston finiscono pure una serie di costumi in cui loro fanno fatica. Un'estetica, una poetica queer, e il bacio, questi vanno fuori di testa per un casto bacio omosessuale tra Rosa Chemical e Fedez, e Achille Lauro che va vestito da Dolce Gabbana, in abiti sostanzialmente femminili sul palco. Ecco, basta questo tipo di roba per metterli in difficoltà. Elodie è sostanzialmente in questo momento, diciamo, l'unica figura italiana che è una pop star, che fa degli spettacoli da pop star, che segue quei canoni là. È una donna creola di origine proletaria, di una borgata romana, che sa parlare benissimo del come e del perché lavora anche con il suo corpo, e sa fare un'intervista su perché posa nuda per un calendario in maniera, diciamo, molto precisa e puntuale. Pure le canzoni di Elodie non hanno nulla di politico, non è che la locomotiva Elodie, semplicemente è una persona la cui biografia incarna dei tratti molto problematici per la destra italiana. E quando, diciamo, insistiamo magari sull'intersezionalità della politica, parliamo di sta roba qua, quello è il problema con Elodie. Elodie magari, non so come dire, dal canto suo... Non so, l'ho sentita qualche settimana fa a Roma, è intervenuta a Quarticciolo e parlare di periferie con Zero Calcare. Sarà una persona genericamente di sinistra, non so se parliamo di patrimoniale, dei suoi soldi, cosa pensa, non so come dire, però bastano dei dati simbolici della sua biografia per renderla problematica, per la indigeribile per questa destra italiana. Berlusconi non avrebbe avuto questo problema, per chiarirci, ad esempio. E l'ultimo elemento, su di esempio, è il rapporto con la comunità LGBTQ. È una cosa che racconta sempre, quando io ero sola e sono stata accolta da questa comunità perché andavo a ballare in locali. E anche questo elemento banale, biografico di una donna, e tra l'altro una cosa che racconta sempre rosicando, e dice: io volevo fare X Factor, ma ero troppo buzzurra per fare X Factor, no? Ero troppo poco raffinata per stare su quel tipo di reality là, mi hanno fatto amici, ma io non volevo fare amici, io volevo fare X Factor, poverina, racconta. Ecco, questi tratti biografici, ci sta tantissimo di quello di cui stiamo parlando. E, ovviamente questo è un racconto rassicurante perché è un pezzo della questione, no? Se fosse tutto così semplice non sarebbero messi così. A proposito di cultura, cioè, nel libro c'è un capitolo dedicato ad Atreu, come da kermesse sfigata dove appunto non ci andava nessuno, è diventato un posto da presenziare, un posto di riferimento importante a livello culturale italiano, non solo per la destra. Come è stata possibile questa trasformazione e che ruolo ha avuto poi nella formazione dei quadri della destra? Atreu nasce come la manifestazione dei giovani di Colle Oppio. Dei giovani di Colle Oppio, che è stata la prima sezione dell'MSI di Roma, è un rudere, un luogo mitico per la storia della destra italiana, perché è letteralmente un rudere romano. E questa sezione, che appunto è stata la prima sezione dell'MSI, pensiamo che il gruppo di potere che oggi gestisce l'Italia sostanzialmente, e gestisce il partito di maggioranza relativa, viene esattamente da lì. Cioè, è un gruppo di potere che si è consolidato là dentro quel rudere lì. Cioè, fa parte di una giovane, di un pezzo di generazione, oggi quarantenni, diciamo, tra i 40 e i 50 anni, che sono cresciuti facendo parte di quell'area dentro l'Alleanza Nazionale che faceva riferimento a quella sezione là. È una cosa abbastanza incredibile. Ma più o meno tutti, E questo gruppo di potere è cresciuto attorno a Giorgia Meloni. A un certo punto si inventano questa manifestazione. Giorgia Meloni, sapete, è stata la segretaria di Azione Studentesca, è stata la segretaria di Azione Giovani, ancora quando era ministra, era la segretaria di Azione Giovani. È stata sempre la segretaria di Azione Giovani, sostanzialmente. E poi è passata a fare la leader dei Fratelli d'Italia, diciamo. Questa manifestazione era, diciamo, la manifestazione di Colle Oppio, e poi è diventata la manifestazione di Azione Giovani, e poi è diventata la manifestazione di Fratelli d'Italia. Sta passata adesso una manifestazione, diciamo, una piccola kermesse identitaria della destra romana, a diventare una cosa un po' più grossa, dove si provavano i primi esperimenti, appunto. Ci si invitava Bertinotti, c'era il confronto con Silvio Berlusconi, tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Però anche dal punto di vista culturale si provano a fare delle cose. C'è un momento in particolare in cui adesso noi tutti parlano, viviamo in un momento politico particolarmente polarizzato dal punto di vista politico, per cui l'antifascismo è tornato di moda in qualche modo, perché dentro questa polarizzazione così forte è tornato nella disponibilità dell'arsenale, diciamo, da dialettica politica. Abbiamo vissuto un decennio in cui è sostanzialmente sparito come questione, tanto che ad Atreu ci vanno Mazz Gazzè, non si ricorda, ci va Mazz Pezzali, che poi dovrà dire no, non è vero, ero fascista, pipiparapà. Insomma, ci va Franco Battiato, che ha opzioni più spurie, però ecco, è un momento in cui tutto sommato andare ad Atreu non è una cosa che ti... adesso nessuno ci andrebbe, no? Che non ti marchia, perché c'è stato un un momento lungo, soprattutto negli anni zero, possiamo dire, nella prima metà degli, la seconda metà degli anni 90, i primi degli anni zero, che qui, diciamo, la contrapposizione politica era molto più bassa, la polarizzazione politica era molto più bassa e meno veemente. E quindi Atreju passa a essere dalla manifestazione culturale dove c'era la serata del rock identitario, a fare tutti quanti, a fare saluti romani, al fatto che poi quella cosa non scompare, semplicemente, come avete visto magari all'inchiesta di fanpage, si svolge dove? A Colleoppio la sera, senza cellulari, eccetera, eccetera. E passata adesso la manifestazione di un pezzo di Alleanza Nazionale a essere un'estazione di governo. Se voi ci andate mo, è una manifestazione in cui se tu ci vai a mezzogiorno c'è sta questa pletora dei dirigenti locali, portaborse che pascolano tra un dibattito e l'altro. Prima era un'estazione estiva, mo si fa d'inverno, insomma, però segnala un po' questi cambiamenti. Farei un'altra domanda, poi apriamo un po' il dibattito per chi vuole intervenire. Ecco, uno dei punti cui si tiene a precisare è l'influenza del trumpismo su questa destra di governo e la cultura war. Dai questa definizione prendendola da un sociologo hunter americano. Ecco, ci puoi spiegare il significato della cultura war? Di culture war so quella roba in cui tutti noi siamo immersi dalla mattina alla sera. Abbiamo passato un'estate a discutere se una campionessa olimpica di pugilato fosse effettivamente una donna. Di questa cosa se ne sono occupati Donald Trump, tra gli altri, tra gli altri se ne sono occupati Donald Trump, Vladimir Putin, Narendra Modi, primo ministro dell'India, Xi Jinping, non lo so, forse c'aveva altro da fare in quelle due settimane. La scrittrice più di successo del nostro tempo, che è Rowling, l'autrice di Harry Potter, Giorgia Meloni e chiunque altro vi viene in mente. Ok? E su questa roba qua le guerre culturali. Le guerre culturali sono, diciamo, lo scontro nella società non sull'asse delle politiche economiche o del conflitto capitale-lavoro, facciamo come volete, ma sullo scontro valoriale. È quella cosa per cui dobbiamo stare a discutere se sono più importanti i diritti civili o i diritti sociali. Noi diciamo tutti e due allo stesso tempo. Ma in realtà io penso che mentre abbiamo trattato le guerre culturali come una sorta di arma di distrazione di massa, ci fanno discutere del sesso della pugile perché non vogliamo discutere delle cose vere, oppure come in qualche modo una sovrastruttura in termini marxisti, quindi ci fanno discutere delle cazzate invece delle cose importanti, diciamo entrambe queste letture io penso siano sbagliate. E penso invece, questa è una traccia di lavoro, secondo me, interessante da esplorare, che mette sul piatto in un libro molto bello Alberto Toscano. Questo libro si chiama Tartofascismo, è un libro uscito l'anno scorso per Deriva a Prodi. Alberto Toscano prova a dire questa cosa qua, io diciamo la banalizzo e ci metto un po' del mio. Nel momento in cui la politica non decide più niente, no? E i margini di manovra sono molto bassi. Che ne so, Donald Trump ha a disposizione, può spendere il 15% del bilancio dello Stato federale. Roosevelt, quando ha fatto il New Deal, aveva a disposizione il 70%. Ok? Per dare un'idea. In un tempo in cui sembra che la politica non decide più niente, soprattutto non cambia la vita dei cittadini e delle persone, la politica, e soprattutto nel momento in cui nessuno si sogna di mettere in discussione gli assetti economici in cui viviamo, benché meno la destra, a un certo punto se non puoi ridistribuire ricchezza, se non puoi ridistribuire welfare, che gli dai ai tuoi elettori? Questo è un po' il tema di fondo, Questo è il tema delle guerre culturali. E questa roba qua, le destre hanno costruito, stanno costruendo, hanno costruito già ampiamente un'agenda globale, perché è un'agenda globale, politica, che passa non per la redistribuzione di ricchezza e welfare o per il cambiamento, consolidamento, in un senso o nell'altro, degli assetti socio-economici delle nostre società, ma hanno invece costruito il tentativo, anzi ampiamente riuscito in alcuni casi, della costruzione di un blocco sociale, che invece a cui redistribuiscono non denaro, ma invece la possibilità di esercitare quote di violenza e di potere simboliche e non. La questione del patriarcato sta in questa roba qua, eh. Quando ci sono state le ultime elezioni in Germania, il voto giovanile è impressionante. La maggioranza dei giovani votano a sinistra. Ma se dividiamo questo dato per genere, la stragrande maggioranza delle giovani donne tedesche vota a sinistra. La maggioranza relativa dei giovani uomini tedeschi ha votato Alternative for Deutschland. Anche questo voto, dal punto di vista statistico, si interpreta solo così, non ci sono altre cose in cui si interpreta. E quindi sì, è il maschio, è il maschio bianco, è la classe media che si impoverisce, è l'insistenza sul tema della razza, della bianchezza. Guardate, la nuova destra ha passato 20 anni a capire come potevano essere razzisti senza tornare al razzismo biologico, e il differenzialismo, tutte queste menate sulla cultura. Qui siamo tornati al razzismo biologico. L'altro giorno la Lega ha fatto una card parlando di un famoso caso di cronaca, questa rifugiata ucraina assassinata su una metro in una città degli Stati Uniti, uccisa perché bianca. Allora no, questi poracci hanno passato 20 anni a capire come potevano essere razzisti senza parlare di bianchezza. Siamo tornati nel giro di pochi mesi, nel dibattito pubblico, a parlare di bianchezza nel mondo occidentale. E quindi questo capitale simbolico che ti promette in qualche modo di continuare ad avere una posizione di supremazia nella società, che è il dividendo che la destra garantisce al proprio elettorato, perché tutto sommato nessuno ci crede che qualcuno ti nei suoi dividendi ci metterà in qualche modo un futuro migliore di quello dei nostri genitori, non so come dire, nessuno ci crede a questa roba qua. E quindi le guerre culturali funzionano in questo modo qua. Prevengo la domanda: e allora che bisogna fare? Allora, in qualche modo, io penso che le guerre culturali sono un asset strategico per tutti, non si può, diciamo, prescindere da questa dimensione del dibattito politico. Non è immettendo elementi di razionalità, di presunta razionalità in questo dibattito, ma invece è, diciamo, nella ricostruzione di un'agenda egualitaria che si costruisce un'alternativa, perché sta tutto là, eh. La destra italiana ha vissuto uno dei grandi successi, il suo unico grande successo in termini culturali, sul revisionismo storico. Il revisionismo storico in Italia è stato è stata un domanda, però ti dico in un minuto, diciamo, il revisionismo storico è stato un fenomeno di massa in Italia. Esatto, il sangue dei vinti ha venduto 500.000 di copie in Italia. E Gian Paolo Panza non era un neofascista, per capirci, ok? Il picconamento del mito del partigiano gappista, del partigiano comunista, del partigiano della resistenza col fazzoletto rosso non è stato fatto per far un favore ai fascisti o perché i fascisti volevano riabilitare i repubblichini. Quello è stato l'effetto deteriore, ma è stato fatto dalle colonne del Corriere della Sera, da Ernesto Galli della Loggia e compagni, quindi della destra liberale, perché il tema era distruggere le conquiste della società democratica del lungo 68 italiano. Quella era la questione, era l'università e la scuola di massa. quello era l'obiettivo, era il welfare, quello era l'obiettivo, ed è passato anche per una, diciamo, per una guerra culturale ante litteram che noi non abbiamo saputo leggere come tale, ma se noi la pensiamo in questi termini è esattamente, l'abbiamo fatta nella metà degli anni 90, non le chiamavamo così, ma era esattamente sta roba qua. C'erano già le prime domande. No, volevo dire sulle guerre culturali, sì, insomma, secondo me è giusto quello che dici, però cioè, spesso la guerra culturale è una reazione della destra alla politica dell'identità della sinistra iniziata un po' prima, nel senso che a un certo punto la politica si fa in un certo modo, le identità vengono fuori, non c'è più la politica della sinistra del passato, però poi dopo questa politica dell'identità è andata, soprattutto negli Stati Uniti, molto avanti. Quindi una parte di guerre culturali della destra attuale trumpiana è una reazione a quella estremizzazione delle battaglie culturali della sinistra. Quindi io non le leggerei solo come un'azione autonoma della destra, ma anche come un terreno che è stato preparato, il che non significa che la politica dell'identità non va bene, cioè significa che bisogna riuscire, diciamo, a fare un discorso, perché è molto complesso, cioè non si può prescindere dall'identità, però neppure si può basare la politica solo su quello, e la destra, cioè, aveva il terreno pronto lì, cioè tutto quello che è avvenuto almeno, diciamo, a livello mediatico, almeno sui social media, dall'inizio degli anni 2000 a oggi è una risposta alla politica dell'identità degli Stati Uniti, che da sinistra è andata molto avanti, si è frammentata e sono scoppiate guerre culturali all'interno di quel mondo lì, e poi dopo è arrivato Trump e è riuscito a portare in quel mondo che dibatteva appunto su questioni anche legate al razzismo, anche legate soprattutto al genere, ma anche al razzismo, poi è arrivato Trump, insomma, che con la sua forza ha imposto un dibattito molto più a destra. Quindi insomma dobbiamo guardare anche cosa c'è dall'altra parte per capire se guerre, secondo me. Sì, no, questa me la scordo perché è difficile. Nel 1995 Peter Thiel a Stanford, Peter Thiel, CEO di PayPal, adesso di Palantir, uno dei, diciamo, veramente l'anima nera della Silicon Valley, scrive un mito e si chiama Il mito della, un libro che si chiama Il mito della diversità, in cui già nel 95 parla esattamente di questa roba qua. Io sono molto critico, diciamo, verso le politiche, sono molto critico verso, diciamo, le politiche identitarie, però penso che, diciamo, che non ci rendiamo bene conto del dibattito se pensiamo che quella è una rimessa, perché penso che le politiche di identità nei campus non solo abbiano dei limiti, abbiano avuto dei limiti, per carità di Dio, ma qua siamo molto oltre, eh? Cioè qua siamo in una dimensione in cui dall'account Twitter della Casa Bianca ci scrivono i meme continueranno, siamo in una dimensione in cui un'avanguardia di estrema destra oscura sostanzialmente, a un certo punto, lo dice molto bene in un'intervista dopo la vittoria di Trump Molburg, che è questo blogger di estrema destra, dice a un certo punto, chi leggeva il mio blog negli anni 10 nessuno l'avrebbe mai assunto a lavorare a Washington, adesso se dimostri che negli anni 10 leggevi il mio blog, vai a fare il direttore della comunicazione di un parlamentare, ecco, lì c'è un po' la differenza, lì c'è stata una vittoria di sfondamento anche di un'avanguardia molto radicale che si è trovata, e non penso che sia soltanto colpa delle politiche identitarie nei campus. Però è diventata rivoluzionaria la destra. C'era un ragazzo con il microfono, se no non si sente nella registrazione. Volevo chiedere come è stato possibile che in Italia si sia sviluppata una destra neofascista nonostante la 12ª disposizione transitoria finale della Costituzione italiana, che vieta la ricostituzione di partito fascista sotto qualsiasi forma. No, io ti chiedevo, queste radici profonde impersonificate da Meloni, come si collocano nel panorama delle destre mondiali, quindi Trump, Putin, Netanyahu, questa foto di Sharm el-Sheikh, che è l'unica donna con i leader arabi, tutto da una parte, che faceva quasi tenerezza, Meloni, e c'è la campagna di vittimizzazione dopo l'uccisione di Kirk, che hanno provato a portare in Italia, non gli è riuscito tanto bene, un commento, e se hai voglia di raccontarci un po' del sionismo romano, visto che è picchiatore, violento. Che, scegli una. E sulla prima domanda, io non sono un fan delle, diciamo, di questa questione. Tra l'altro c'è un libro molto bello che è uscito è uscito qualche mese fa, di cui ovviamente non mi ricordo il nome in questo momento, che ricostruisce tutta la vicenda dei tentativi di mettere fuori legge l'MSI, eccetera. E io non sono un fan di questa questione, penso che, come dire, i fenomeni politici quando esistono conquistano di per sé una propria legittimità, ecco. E non penso, io non sono neanche a favore della messa fuori legge organizzazioni neofasciste, ad esempio. Penso che ponga dei problemi enormi di intelligence, che non è il mio lavoro, per carità di Dio, però se io fossi, non so come dire, se fossi della Digos vi direi: no ragazzi, non lo fate, è una cazzata, ok? Perché pone un problema di intelligence banale, cioè che finché un fenomeno è visibile è controllabile, banalmente, e non è il mio mestiere. Dall'altra parte non penso che risolva i problemi della società, cioè se una cosa esiste nella società non è che, se diciamo che non deve più esistere, smette di esistere, anzi forse dal punto di vista della Repubblica in qualche modo addomesticare alcune pulsioni aveva un senso. È comunque una storia molto complessa, a ricostruirla secondo me non è così banale come la risolve Lampi, ecco, per dirla chiaramente, questa cosa qua. I passaggi di regime sono sempre una cosa complicata, possiamo discutere all'infinito dell'opportunità dell'amnistia di Tito Gliatti. È vero che l'Italia è stata particolarmente benevola e un fenomeno e un processo di defascistizzazione non c'è stato in ampi settori della società, e questa cosa è verissima, però non penso che la soluzione sia mettere fuori legge le organizzazioni politiche. E sul, che crea precedenti pericolosi per tutti. Sul grumo di domande successivo, allora l'ho fatto io per tutti. E se uno guarda le biografie di tutti i deputati di Fratelli d'Italia di oggi, quindi diciamo tra Camera e Senato, di tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia, scopriamo che la stragrande maggioranza erano già in Fratelli d'Italia nel 2012. Quando nasce Fratelli d'Italia, elegge un pugno di senatori e di deputati, perché prende poco più del 2%. Con l'attuale legge elettorale non entrerebbero in Parlamento, per esempio. Oggi, che hanno conosciuto una crescita esponenziale anche rispetto al 5-6% delle tornate elettorali precedenti, altre forze politiche avrebbero proceduto con cooptazioni dall'esterno. Per te che fai? È vero che la legge elettorale, non avendo le preferenze eccetera, facilita la nomina, ma è anche vero che tu non c'hai un partito, è stato al 2%, oggi al 25%, ed elegge quasi tutte persone che stavano già lì nel 2012, tranne pochi casi che poi vengono, sempre Nordio che poi andava a fare il ministro, a Roccella che poi andava a fare il ministro, Marcello Pera, Tremonti, cioè tranne alcune personalità, ma sono una decina su 200, sono tanti, e sono quella roba là. Allora, questo per dire cosa? Per dire che questa cultura di cui abbiamo discusso è una cultura molto rivolta verso l'interno. Per questo prima dicevo il mito incapacitante non è mai stato superato, perché questa roba qua, se tu la racconti, non ci fai politica. Cioè, quando loro rimettono la fiamma nel simbolo, prendono il 2%, non prendono il 25% perché c'è la fiamma nel simbolo. Non è che il 25% degli italiani che vanno a votare c'hanno la fissa della fiamma, dell'MSI o de Mussolini, non gliene frega niente. Cioè abbiamo un blocco molto consolidato di centrodestra elettorale, che al suo interno è molto mobile. Berlusconi per tanti anni, poi Salvini, poi Meloni. Negli ultimi 15 anni gli elettori di centrodestra hanno premiato i leader che sono stati all'opposizione. Prima Salvini e poi Meloni, che è stata all'opposizione di un governo dove stava pure Salvini, ad esempio, no? E quindi, diciamo, l'elettorato del centrodestra si è radicalizzato, ma non si è radicalizzato perché Evola o perché il solstizio d'inverno o ste menate qua, no? Questa è una cultura che mantiene dei caratteri, diciamo, anche iniziatici. Però siamo sicuri che quei deputati che nel 2012 di oggi, che nel 2012 stavano già in Fratelli d'Italia e che magari l'hanno fatto i consiglieri d'opposizione a Como, hanno provato a fare consiglieri regionali, non ci sono mai riusciti, perché in un partito piccolo si legge poco, si legge pochissimo, in un partito così, vengono da questa roba qua. Cioè in camera, in libreria, hanno tutta questa roba qua, la loro educazione politica e sentimentale che condividono con Giorgia Meloni e con i suoi ministri è questa roba qua. Questo per dire che la destra italiana è dentro, diciamo, un'agenda globale della destra, che è quella che abbiamo raccontato adesso, quella delle guerre culturali, che allo stesso tempo rappresenta un'anomalia. Di fatto è l'unico partito al mondo che ha una filiazione diretta col fascismo storico, Non ce ne sono altri che hanno una genealogia così diretta. E quindi nella propria, diciamo, formazione culturale ha delle anomalie sicuramente. Però fa parte di un'agenda politica globale della destra, che è quella che abbiamo raccontato poco fa. E dentro in questa agenda politica poi sussume anche Kirk, che 6 ore prima nessuno sapeva chi cazzo era. Ovviamente no, nessuno, Ma dico, sui social in realtà i giovani, un po' di ragazzi, io guarda sono sicuro che Salvini non lo sapeva, sono sicuro che Giorgia Meloni non sapeva che cazzo fosse, mi ci gioco quello che volete, no? Però è normale, ognuno fa il mestiere suo, fa il lavoro suo. Sulla destra e le comunità ebraiche è un discorso molto complesso che io ho affrontato, diciamo, non in questo libro, nel mio lavoro da giornalista, tra i pochi, i poveracci in Italia, e è un discorso molto complesso, il divorzio, diciamo, tra le sinistre e le istituzioni ebraiche romane, non solo, ha una storia abbastanza lunga ormai, si è accelerato negli ultimi anni. Da una parte ci sono degli elementi, diciamo, locali che aiutano questa cosa, cioè il pezzo che fa lo squadrismo, la comunità ebraica, diciamo le cose come si chiamano, è un pezzo che si è organizzato negli ultimi anni anche in alcuni interessi corporativi. I famosi urtisti, quanto i gladiatori del Colosseo, sono ebrei a Roma, ad esempio, sono un pezzo della comunità ebraica, i bancarellari di Ponte Marconi, cioè un pezzo di anche di sindacato del piccolissimo commercio. È organizzato tramite alcuni interessi, ad esempio dentro la comunità ebraica romana. La comunità ebraica romana vive nella nostra società, quindi, e vive contemporaneamente nella società israeliana. Entrambe hanno conosciuto una radicalizzazione, uno spostamento a destra. Il combinato disposto di queste due cose fa che non sono estranee alla nostra società, però questo spostamento a destra ha avuto effetti diversi, diciamo, di quelli che ci sono stati all'esterno. Parliamo di una comunità molto piccola, parliamo di poche, diciamo che non si è iscritti per nascita alle comunità ebraiche, per chiarezza, cioè perché non è che se uno è di religione ebraica fa parte della comunità ebraica, ci si iscrive alla comunità ebraica come ci si iscrive all'ARCI, per capirci. Ci sono una serie di regole interne, di strutture interne ovviamente, e questa radicalizzazione così repentina è andata effettivamente di pari passo con la guerra di Gaza, ha fatto emergere degli elementi che però già erano lì, no? E non è, appunto, non è una storia recente, ha avuto degli esiti più drammatici negli ultimi 2 anni. La storia del rapporto tra la destra italiana e le comunità ebraiche è una storia anche quella complessa, che va di pari passo col divorzio delle sinistre dalle sinistre di un pezzo importante della comunità ebraica, e passa sostanzialmente per una cosa banale, no? Se a un certo punto dire socialista o dire ebreo nell'Europa a cavallo tra 8 e 900 era circa la stessa cosa, ci troviamo invece in un mondo in cui Israele ha incarnato, soprattutto negli ultimi 25 anni, dentro la guerra globale al terrorismo, è stato, no? Nelle crociate è stato in qualche modo la prima linea contro il terrorismo islamico. Dall'altra parte ha rappresentato un laboratorio di un paese identitario e razzista e occidentale e democratico, dove si votava l'apartheid, niente di diverso. E quindi ha rappresentato un laboratorio interessante per le destre mondiali. Quello che facciamo fatica a leggere è come riescano a esistere allo stesso tempo, a essere attivi, diciamo, scusate, provo a dirlo in maniera semplice, ma non perché sia complesso, perché non mi vengono le parole giuste, come siano attivi allo stesso tempo i luoghi comuni dell'anti-ebraismo di destra, dell'antisemitismo di destra, e questa cosa conviva serenamente con invece il sostegno a Israele come baluardo dell'Occidente. E questo perché da una parte c'è l'ebreo come immagine, e anche l'ebreo in assenza dell'ebreo, non so come dire, però dell'ebreo come immagine del cosmopolitismo, come cosa negativa, e quindi come elemento che rompe il rapporto tra sangue e suolo, che è stato quello che ha rappresentato, l'ebreo nelle società occidentali dall'età moderna a oggi, e dall'altra invece c'è l'ebreo come invece garanzia del rapporto tra sangue e suolo, Israele, il progetto di Israele. Queste due cose nella testa convivono serenamente tutte e due, e quindi ci sta Soros, che è cattivo, e ci sta invece il sostegno a Israele, che è buono. Queste due cose non hanno nessun tipo di contraddizione per la destra. Vi segnalo una cosa: il mito del Soros cattivo l'hanno inventato due professionisti delle campagne elettorali, che hanno lavorato alle campagne elettorali dei repubblicani americani e poi di Netanyahu, del primo Netanyahu, quindi parliamo dei 15 anni fa, e che poi hanno lavorato alle campagne elettorali di Orban, quindi parliamo di ebrei di destra americani, che quando hanno dovuto trovare un nemico per Orban hanno trovato Soros. Perché? Perché Soros, magnate ebreo ungherese, immagine perfetta del nemico esterno, e se lo sono inventato questo nemico. E Orban ha fatto l'università come tutti gli oppositori, diciamo, del regime del socialismo reale in Ungheria, grazie ai soldi di Soros. Orban ha studiato in Inghilterra, negli Stati Uniti, grazie alle borse di studio di quella che all'epoca non si chiamava Open Society, ma era la stessa cosa. E questo qua è paradigmatico di come come queste cose si tengono insieme senza contraddizione. Quindi viviamo in un mondo dove in qualche modo sono attive allo stesso tempo le stesse vecchie storie dei protocolli di Savi di Sion, e allo stesso tempo invece è attivo l'idea invece di uno stato ebraico come invece è un'idea dell'Occidente, esatto. Altre domande c'è Francesco, poi qualcuno, vabbè, pensateci. Intanto grazie Valerio, e io mi attacco a quest'ultima cosa che dicevi tu rispetto a una cosa: nella famiglia della destra, diciamo così, nei vari album di famiglia in realtà si tengono assieme tante cose, anche appunto tante cose che apparentemente potrebbero nella logica essere estremamente contraddittorie, cosa che invece non vediamo nei vari album di famiglia delle sinistre globali, eccetera eccetera. E la domanda che ti facevo io era questa, rispetto al fatto che alcuni miti, appunto, vabbè, Atreyu eccetera, alcuni sono diventati più centrali negli ultimi anni, tipo penso ad Acca Larenzia eccetera, anche quelli hanno avuto un clamore un po' più e anche una partecipazione un po' più nazionale, un po' meno forse romana e quant'altro. E ti chiedevo se, come hanno provato a leggere alcuni giornalisti, il fatto che ci sia un'ipotesi di governo della destra, di questa famiglia, che comunque le sue contraddizioni se le riesce a gestire e quant'altro, limita in un qualche modo altre esperienze di una destra più eversiva o più di strada o più, più sì, anche più violenta, nel senso che è un tema quello anche la violenza nella destra anche sociale e quant'altro, se un'ipotesi di governo eccetera pone un tappo a quella roba lì. E quindi, come si legge un po' nel libro di Berizzi, c'è uno scontento del fatto che oltre quella roba lì non si potrà mai andare, o se invece in un qualche modo comunque il tema della violenza viene assunto e portato a livelli diversi e quindi riesce a coesistere anche con ipotesi di governo e si può essere anche utilizzato, in un qualche modo viene utilizzato in dimensioni di governo. Intanto rispondo, faccio una cosa sì a entrambe le cose, cioè sono vere entrambe le cose, nel senso che noi assistiamo a una crisi ormai lunga della destra extraparlamentare italiana, che ha motivi disparati. La crisi principale è la crisi del più importante gruppo di questo universo, che è Casa Pound. Una crisi lunga che nasce nel fallimento dell'ipotesi elettorale, che nasce nella crisi del riconoscimento da parte dei media e anche nell'essere state vittime di non aver colto il momento giusto, aver tirato troppo la corda. E questi probabilmente, se decidevano di entrare in Fratelli d'Italia 10 anni fa, se li accollavano, non so come dire, mo che bisogno, perché questi dovrebbero aver bisogno dei 4 voti e di tutte le rotture di quel mondo che questi si portano dietro, perché ci vanno al brodo. E al contrario in qualche modo, al contrario può esistere invece una dimensione che è quella un po' più da vigilantes che vediamo nelle nostre città, che può aiutare la destra di governo a mantenere diciamo il doppio registro di lotta e di governo, e quindi l'eroe, il ritorno delle ronde, l'ostilità contro Maranza. E quindi non è che ne sono successe nell'ultimo anno di episodi di violenza di questo tipo. Quindi, insomma, invece la copertura di un certo vigilantismo, invece mi sembra che la mobilitazione dei cittadini attorno al tema della sicurezza, mi sembra che è un tema che invece su questo livello qua può reggere più della copertura ai gruppi organizzati della destra neofascista che fanno il giro. L'altra parte della domanda della questione che facevi, mi sembra che afferisce invece allo slittamento autoritario, in qualche modo, mi pare aver capito, in cui sì, la roba è vera, però diciamo che siamo stati abituati a pensare che alcune cose non cambiassero un po' mai, invece diciamo, la democrazia è una cosa che non è sempre uguale, sono democrazie molto diverse anche con, e quindi sì, sicuramente la destra italiana, questa destra italiana qua, quando si trova a esercitare il potere, ha un volto più feroce e ha una gestione più autoritaria della società, ma lo vediamo nelle piazze, lo vediamo nel decreto sicurezza, ma lo vediamo anche nell'università, cioè l'idea di urbanizzare l'università e quindi di avere un'università più piccola, molto più piccola e molto più docile, non è una scemenza, non è una cosa che inizia oggi, ma vediamo un'accelerazione importante. Ma certo, l'altro giorno nella finanziaria rimettono in qualche modo l'app 18 di Renzi, prima l'hanno tolta, poi hanno rimesso un pezzetto, adesso hanno messo un finanziamento per una carta, non so come si chiama, non mi ricordo come si chiama, sostanzialmente non devi essere stato bocciato e se hai studiato per fare il meccanico, il parrucchiere, l'estetista, i libri non li puoi leggere, non te la danno. A teatro non ce vai, non ti diamo il bonus. Cultura dovrebbe essere lo strumento esattamente per provare a, diciamo, a superare i divari di classe, no? E invece è esattamente il contrario, è proprio la logica. Però insomma, se la trasponi poi su come pensi l'università, ecco che immagino l'università molto, molto più piccola e gestita in maniera molto più verticale. Pure questo non è un processo che inizia oggi, però ne vediamo un volto particolarmente feroce, credo. Era Mario, poi però date una birra a questo punto, facciamo l'ultima domanda, poi no, anche altre 10 No, io ti chiedevo, domanda la faccio alla fine. Questa è una pessima previsione. Che chiaro, domanda la faccio alla fine, se no ci perdiamo. Cioè, parto dal ragionamento che hai fatto tu e che condivido pienamente, che l'Italia non ha mai reciso completamente la Repubblica Italiana della radice col fascismo. Hai fatto un elenco di cose che non sono state fatte, hai fatto dei nomi. In questori della Repubblica Italiana sono stati esattamente gli stessi, lo stesso numero, le stesse persone da prima della caduta del fascismo a dopo la caduta del fascismo. Penso che la destra italiana da lì in avanti non abbia fatto altro che aspettare il suo momento, che è arrivato, per fare quello che ha sempre fatto, cioè fare stare dalla parte del potere, del capitale, dei padroni e di chi ci affama. Cioè, negli anni 60, negli anni 50, negli anni 60 si è posizionata sempre su delle cifre, ha fatto riferimento all'MSI, ma sempre posizionata su delle cifre elettorali quasi ridicole, poco visibili perlomeno. Negli anni 60, negli anni 70, tu l'hai citato poco, ma secondo me quello che hanno fatto è stato stare in giro a mettere delle bombe, a fare degli attentati. Il partito è servito da sponda per dare anche una copertura a questi qua. Negli anni 80 non c'era bisogno di loro perché c'era Berlusconi che andava a gonfie vele. Poi piano piano c'è cominciato a essere bisogno di una destra marcatamente più cattiva, e serviva un discorso culturale di un certo tipo, e quindi è servito Salvini. Adesso credo che è giunto il loro momento, cioè il momento in cui loro devono governare, o volenti o nolenti lo devono fare, perché tutto il mondo occidentale ha dei governi di destra, marcatamente di destra, e quindi l'Italia è in questo, io la vedo in questa situazione, che sia più degli altri o meno degli altri. Però sicuramente la dinamica che io leggo non è nient'altro che loro che hanno fatto sempre il loro porco gioco, sporco e porco, e adesso continuano a farlo, e l'elettorato si sposta, lo fanno spostare dove gli fa comodo, da Berlusconi alla Lega, e adesso chiaramente l'elettorato di destra è convogliato tutto sulla Meloni, perché il potere è forte e la destra deve essere forte. Quindi ti chiedo se tu sei d'accordo sul fatto che il gioco che fanno è sempre il solito gioco del cazzo, oppure dare una lettura diversa. Io, la mia lettura è molto semplice ed è questa. Domanda e risposta. No. Ti chiedo una cosa. Tu immagino che hai una lettura diversa dalla mia, però ti chiedo con questo ragionamento, che se ti balena qualcosa o ti fa balenare niente. No, io dico. Aspetta, Vale. Dico una cosa, che Salvini non solo parla sfiga, ma è anche sfigatissimo. Nel senso che, diciamo che sugli slittamenti elettorali non ci sono grandi burattinai, no? Non è che vanno dove gli dicono. Salvini è stato sfigatissimo, raga. Lui è arrivato alle stesse percentuali della Meloni, ma gli è arrivato in un momento in cui il Movimento 5 Stelle aveva creato in Italia una situazione anomala di una tripolarità che era un'assoluta novità. E quindi quello, invece di poter fare, il centrodestra italiano si presenta con lo stesso schema dal 94 a oggi, identico. Anche quando non hanno governato insieme, poi le elezioni successive sono tornati sempre con questo schema, senza nessun tipo di difficoltà, ok? Ha cambiato qualche nome di qualche partito, ha cambiato le percentuali interne. Quando Salvini arriva al governo, povero Cristo, si ritrova a dover fare un accordo innaturale, il famoso governo giallo-verde, si ritrova poi nel Covid e quindi nel clima dell'unità nazionale e si trova a fare il governo dell'unità nazionale, poi si trova con Draghi, costretto a rimanere al governo perché i suoi dicono no, vogliamo rimanere al governo, e gli ha detto malissimo. Alla Meloni, il giro prima era stato il contrario, cioè Giorgia Meloni era rimasta impastogliata nelle vicende dell'allora PDL, Salvini, che era la guida di un partito che sembrava distrutto e destinato a scomparire dopo il Troda, i diamanti della Tanzania, gli scandali della Lega, robe che sembrano di un altro mondo, no? Ok? E quindi questo che ha trovato questo partito, ha trovato l'opposizione, ha saputo interpretare un ruolo. E quindi, diciamo, sì, giocano sempre lo stesso gioco, gli ha detto anche molto bene nel caso specifico, perché, diciamo, se ci fosse stato uno schema politico diverso in Italia, più con un bipolarismo più classico come quello dove siamo inseriti ora, e questi rimanevano al 5%, cioè già ci trovavamo Salvini che continuava a essere l'azionista di maggioranza del centrodestra, sarebbe stato l'interprete di una destra con molti aspetti simili, ma diciamo con una temporalità e una storia diversa, e io non avrei scritto questo libro, avrei fatto un atto sulla Lega. Però è questione di mercato, l'ho fatto prima, un altro, esatto. Quindi questo, diciamo, rispondendo a questo, i direttori non si spostano così, è stata anche fortuna. Il fatto che loro svolgano sempre un po' lo stesso ruolo, in parte sicuramente è vero, possiamo dire in un altro modo, possiamo provare a dirlo dicendo che sicuramente la destra italiana ha rinunciato da tempo a qualsiasi velleità di presentarsi come un'alternativa all'esistente, ecco. Ma anche la sinistra. Sostanzialmente che la destra e destra stiano volando su una situazione generale precaria e incerta sulla rassicurazione, cioè dopo un'azione della sinistra che ha parlato appunto dei diritti dei migranti, delle donne, del movimento LGBT, la destra risponde a quella paura, diciamo così, della reazione verso tutto questo. Quindi in questo momento, visto che è abbastanza generalizzata, vola su queste cose. Però io sono molto preoccupata, chiamiamo sinistra, che non saprei come definire. Ieri sera, volevo raccontarlo a tutti perché penso che sia interessante, ho visto uno spettacolo terrificante sui Fratelli Cervi. È stata una roba... una cosa, probabilmente la regia della Albertina Sogliani con i baffi, però è stata una roba, cioè alla fine si è concluso, cioè una tragedia greca con tanto di coro, eccetera. E alla fine si è conclusa. A teatro. E alla fine si è conclusa con 7 stelle in cielo, perché Fratelli Cervi erano molto cattolici, sono andati in cielo in paradiso. Cioè una roba terrificante. Sono uscito un po', ho anche dormito, però non sono riuscita a applaudire perché io mi sono vergognata. Noi siamo stati occupati dalla Democrazia Cristiana, che cioè, Reggio Emilia è occupata da 20 anni da Verriola e dei suoi accoliti, ed è una roba allucinante perché stanno modificando completamente, stanno avendo un'egemonia culturale sul neoliberismo e stanno modificando tutti, diciamo così, tutto quello che ha la sinistra, ed è secondo me è spaventoso. Comunque devo dire questa cosa perché mi sento male. Purtroppo noi siamo in arretramento totale, e non c'è soltanto la destra, ma c'è anche questa Democrazia Cristiana, diciamo, per le due di sinistra, che crede profondamente nel neoliberismo e fa di tutto per imporlo con privatizzazioni continue, eccetera. Quindi siamo messi veramente male anche dall'altra parte. Io su questo non so, io penso una cosa, penso che esista una questione, diciamo, siamo abituati a pensare l'Italia dove esiste una questione meridionale. Esiste una questione settentrionale, lo dico a voi, ma io sono convinto da qualche anno che esista una questione che riguarda, che non saprei nominare perché è una questione centrale, suona male, centrista, ancora peggio, però esiste una questione che riguarda le regioni italiane dove la subcultura del PC di governo è andata in crisi. Perché penso sia andato in crisi un mondo, diciamo un universo valoriale, è andato in crisi. Su questo qua probabilmente la Toscana è il laboratorio più avanzato che è da queste parti, e allo stesso tempo esiste una crisi di vocazione produttiva a molte parti, quindi esiste una crisi anche di interi distretti industriali, di vocazione dei territori, di territori che sono stati un'avanguardia per tante cose e si scoprono provincia, nel senso deteriore del termine, marginali. Questa cosa riguarda in maniera diversa l'Umbria, la Toscana, l'Emilia Romagna, ma penso sia una questione molto interessante da affrontare. Non la posso affrontare io, dovrebbe affrontare chi la conosce meglio di me per capire, però mi sembra che è una questione che cogliamo con difficoltà questa crisi, che è una crisi multilivello, appunto, dove si sovrappongono una crisi di un modello produttivo, una crisi di un universo valoriale. Così, nel mio municipio a Roma governiamo un'amministrazione di centrosinistra, no? Quando vado, mi è capitato di andare, quando vedi, e diciamo non c'è paragone tra il PD con cui abbiamo a che fare noi, che ha i suoi aspetti deteriori, per dire in maniera banale, con quello che trovi a Modena, a Rimini, che invece ha degli aspetti di una ferocia incredibile, della sovrapposizione totale con i livelli di occupazione di istituzioni, dei corpi intermedi, no? Dove regge, e dove regge un aspetto feroce, dove va in crisi, come in Toscana, invece fa emergere uno sfarinamento della società, un'affermazione della Lega, di alcune destre, di alcuni fenomeni più deteriori. E secondo me è un tema molto interessante da affrontare, e tra l'altro mi sembra un tema che non occupi, che non interessi la ricerca, invece secondo me è un tema molto molto molto interessante. Grazie, ci sono altre domande? Una velocissima, perché il comunismo si è esaurito. E la differenza tra il primo Trump e il secondo Trump sta tutta in questo, cioè che quel tipo di narrazione non ha trovato dei sbocchi, cioè a un certo punto è andato rovinandosi. Ha aperto però la porta a questo trionfo delle estreme destre, cioè senza quella destra. Lui fa le domande come Floris, benissimo, bellissimo, televisivo. Non lo so, nel senso che io non ho ancora capito bene che ci abbiamo di fronte, ma io non lo so, penso nessuno di noi l'ha capito benissimo ancora in che mondo siamo immersi. Io ho passato i primi mesi di amministrazione Trump a provare a capirlo, mi sono un po' stufato, perché poi a un certo punto ho capito che bisognava un po' aspettare, no? Perché sembrava che ogni settimana cambiasse il mondo, invece ho capito che bisogna un po' prendersi i tempi un po' più lunghi di quelli degli annunci. E sì, mi sembra che uno dei cambiamenti più significativi dal punto di vista proprio della materialità di questa seconda amministrazione Trump sia oggettivamente il rapporto con la Silicon Valley. Cioè, io penso non si possa prescindere da questo, e penso che dobbiamo anche provare a leggere come la Silicon Valley si sta dividendo. Cioè, da una parte l'emarginazione di Musk che voleva fare, voleva inseguire il grande vecchio sogno di avere uno stato ridotto alle funzioni dure di polizia e svuotato di qualsiasi altra funzione, no? E quindi ha fatto questo dipartimento in cui toglieva i soldi a tutti, chiudeva, abbassava le sale cinesche, tutti a casa, via, ditemi quanto siete produttivi, cioè, a un certo punto lì anche ha parato lo Stato e gli ha detto: ragazzi, fermi tutti, così non si può fare. Dall'altra parte mi sembra che la conversione invece sull'altare dello Stato di una figura ben citata, un'altra figura che abbiamo citato, che è Peter Thiel, ci dà delle risposte. Peter Thiel è stato CEO di PayPal, fondatore di Palantir, socio con PayPal di Musk, hanno fatto entrambi la loro fortuna da questa azienda, e mi sembra che zitto zitto si stia posizionando in maniera diversa. Cioè, lui che è stato un fautore della, diciamo, della frattura con lo Stato, addirittura finanziava a un certo punto degli istituti che dovevano fare dei microstati come isole, in cui invece della democrazia ci stava un CEO, i cittadini erano azionisti di questi stati, è uno che con Palantir, che è un'azienda che investe e fa sostanzialmente AI e software e hardware per l'industria bellica e per l'industria, diciamo, delle tecnologie del controllo, è uno che ha deciso che bisogna costruire un nuovo apparato, come si chiamava, industriale bellico, di cui lui deve essere uno dei protagonisti, e che quindi a cui le risorse dello Stato gli interessano tantissimo, e che quindi si stia creando effettivamente, quando diciamo le oligarchie, diciamo questa cosa qua, cioè diciamo dei monopoli in qualche modo garantiti dalla forza dello Stato, ma anche dai soldi dello Stato, perché quando Musk dice che vuole andare su Marte sta dicendo una cosa, dicendo: voglio i soldi della ricerca pubblica sull'aerospaziale per andare su Marte, perché senza quelli non ci vai su Marte, non fai neanche la ricerca per fare, grazie, le tecnologie di Musk per fare SpaceX, per fare poi per fare anche Starlink, che sono basati sul fatto che hanno dei reattori che riutilizzano, cioè dei missilotti che invece di buttarli si possono riutilizzare, che sembra una banalità ma sono miliardi di dollari, questa storia qua, quella l'ha fatta con i soldi dello Stato, non l'ha fatta con i soldi suoi, per capirci. E questo per dire cosa? Per dire che mi sembra che siamo in uno scenario inedito, francamente, per quanto riguarda l'amministrazione Trump, e che molto passa, secondo me, per la relazione con questo tipo di capitalismo, per questo tipo, su questo tipo di oligarchia. E devo dire, ci siamo interrogati a un certo punto, 2008, la crisi economica, allora tutti qua, adesso c'è il momento 1933, a un certo punto devono arrivare i fascismi, no? Sembrava, quindi un po' i ricorsi storici ci richiamavano alla mente quel tipo di meccanismo là, e adesso viene quasi da pensare che siamo in una nuova modernità, no? In cui invece è lo scontro interimperialista che sta al centro, possiamo pensare la Silicon Valley quanto i suoi omologhi cinesi, come la compagnia delle Indie di oggi, no? Quindi come appunto dei nuovi apparati pubblico-privati in qualche modo, cioè di soggetti privati garantiti dalla forza invece degli stati, che vanno a conquistare dei mercati, a garantirsi dei monopoli, diciamo, se vogliamo fare dei facili paragoni con la storia, non funzionano mai bene questi paragoni con la storia. Ma io penso che la grossa differenza passi per questo argomento.